Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, eccoci qui, una domenica importante, oggi è l'8 aprile, è la domenica di Pasqua, una domenica molto vicina all'inizio di primavera e quindi abbiamo deciso per la puntata di oggi di parlare di sorprese. Le sorprese sono nella nostra vita, ogni giorno ce le troviamo davanti, a volte sono sorprese belle, a volte sono sorprese meno belle, ma sicuramente sono inaspettate, e quindi solo per il fatto che siano inaspettate hanno sempre qualcosa di curioso e di interessante. Oggi la puntata quindi è: che sorpresa? Ecco, in generale cercheremo di parlare delle sorprese del nostro cuore, del nostro cervello, della nostra immaginazione, le sorprese degli artisti che fanno un mestiere e poi ci sorprendono perché ne fanno un altro e riescono comunque bene anche a fare quell'altro. Insomma, di sorprese parliamo nella puntata del riposo del guerriero, e per cominciare io ho in mente una canzone che racconta di una sorpresa forse non bellissima, una vecchia canzone di Lucio Battisti che racconta anche di questo periodo dell'anno e che si trova a dover vedere la sua ex fidanzata trovandola con un altro. Come sono prendendo treni, no, non sto sbagliando. Devo dire che non è bellissima la sorpresa che ha avuto Lucio Battisti in questa canzone. Lui arriva dalla sua ex, le stringe le mani, lei trema e lui crede, insomma spera che lei sia ancora innamorata, che il suo tremore sia dovuto a quello, e invece scopre che il tremore è dovuto al fatto che lei è con un altro in quel momento. Per cui devo dire, sorpresa non molto carina, però insomma è un modo per introdurre l'argomento di oggi. E adesso vi faccio una sorta di quiz. Il film Sliding Door, il coltellino svizzero, l'Aqua Fus di Lidelli, di Poltrona Frau, oppure la radio Cubo TS522 di Marco Zanuso e Richard Sapper, o ancora l'invenzione del perno o della cerniera. Cosa hanno in comune tutte queste cose? Hanno in comune il fatto che in qualche modo si aprono e si chiudono, e questi sono solo alcuni dei tasselli del racconto di Overture 2012 Design On Off. È una mostra che per la prima volta affronta il tema dell'aprire e del chiudere attraverso un percorso curioso, complesso, assolutamente scientifico, ma anche giocoso. In occasione del Salone del Mobile di Milano siamo nello spazio Emporio in via Tortona 31 a Milano, anzi saremo dal 17 al 22 aprile, e c'è Marco Casamonti al telefono, che è il curatore di questa mostra, Area. Marco Casamonti, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua a voi. Allora, raccontiamo di questi mobili, cominciando forse da questi, che si aprono, si chiudono, in qualche modo si trasformano. Sì, il tema è quello della sorpresa, esattamente. Ci sono degli oggetti che creano meraviglia, proprio perché gli oggetti che dovrebbero essere per sua natura immobili o fermi, in realtà, grazie a cinematismi, si muovono, si aprono e si comportano un po' come i fiori. In realtà ne siamo pieni di questi oggetti, in tutte le nostre case. Pensiamo al divano letto, è un oggetto che è divano ma che si trasforma e crea sorprese e meraviglia, ma diventa un comodo letto dove dormire. E la storia del design è piena di questi straordinari oggetti, e noi li mettiamo in mostra raccontando gli aspetti segreti, cioè come si muovono, come si aprono, come si chiudono. Ecco, anche perché dietro questi oggetti c'è moltissima tecnologia, perché all'apparenza sono oggetti semplici e poi in realtà nascondono degli studi molto approfonditi. C'è molta tecnologia e c'è molta sapienza, anche sapienza artigiana. Devo dire che questa idea dei mobili che contengono segreti e quindi sorprese è molto antica. Pensiamo ai mobili Medicei, ricchi appunto di segreti e ricchi di spazi nascosti, e questa tradizione si è tramandata nella storia dell'artigianato e poi dell'industria. Oggi raccoglie tecnologie anche molto avanzate, che però alla fine, vedremo nella mostra, sono tutte incentrate su cinematismi semplici: la ruota, il perno, la leva, meccanismi che Vittorio Marchis, che è un professore ordinario di storia della meccanica al Politecnico di Torino, ci ha raccontato e ci narra in modo molto piacevole. Ecco Marco, a me vengono in mente adesso così i mobili degli anni 70, i mobili bar, che erano i mobiletti che all'apparenza appunto erano tali e poi invece si aprivano dando spazio proprio a un bar vero e proprio con bottiglie e bicchieri. Erano molto di moda in quegli anni. Gli anni 70 sono stati anni straordinari, direi gli anni 60. Io potrei citare alcuni oggetti, sì. Qualcuno è già stato citato, ma nella radio Brion Vega di Zanose Sapre del 64, la mini kitchen era una mini cucina disegnata da Gio Colombo, sì. Un parallelepipedo nel 1965 disegnata, quindi ormai molti anni fa, che si apriva e diventava appunto una cucina che animava la stanza del soggiorno. Ma ci sono molti esempi, per esempio la sedia pieghevole plia della Castelli, disegnata da Giancarlo Piretti nel 69, è un oggetto straordinario. Ecco, perché è un foglio, sì, che si piega, si apre e quindi diventa sedia, ma diventa anche quadro da appendere al muro. La ricordo molto bene. Marco, perché in quegli anni si tendeva a nascondere il mobilio? Cioè si trasformava e si nasconde anche la televisione prima, negli anni prima addirittura, spesso era nascosta dietro dei pannelli che poi venivano aperti e facevano vedere il tubo catodico. Ma non era solo un problema di nascondere, sì. Più che altro era un problema di conquistare spazio. Tutta la ricerca che riguarda gli oggetti trasformabili aveva una doppia ragione. La prima è che le case diventavano sempre più piccole e quindi c'era necessità, insomma, di avere degli oggetti duple face, che avessero una doppia azione e una doppia funzione. E quindi questa necessità di trovare spazio dava agli oggetti questa possibilità appunto di occupare meno spazio, poi di aprirsi e di accogliere le attività della vita domestica. Ecco, quindi allora li potremo ammirare proprio in occasione delle Sone del Mobile. In quest'area invece, che è un'area dedicata proprio a questa mostra, perché sapete che c'è anche la parte esterna al salone, che siamo fuori salone, siamo allo Spazio Emporio in via Tortona 31 a Milano, la 17 al 22 aprile. Grazie Marco Casamonti, buona domenica. Grazie a voi, buona Pasqua. Grazie anche a te. Volevo ricordarvi anche il numero monografico della rivista di architettura Area, edita dal gruppo 24 Ore, e che si occupa proprio di questa mostra che si chiama Overture 2012. Il riposo del guerriero. E a proposito di sorprese, ci sono anche quelle della nostra mente. Sergio Della Sala, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua a voi. Ciao Sergio, tu sei autore di un libro intitolato Mai fidarsi della mente, N+1 esperimenti per capire come ci inganna e soprattutto perché, edito dalla Terza. Allora Sergio, la nostra mente quindi non ha sempre ragione, ogni tanto si sbaglia. No, difatti questo librettino è un divertente per dimostrare che la mente si sbaglia, che non è un computer, il cervello non funziona come una videocamera, come un registratore. È molto migliore, essendo molto migliore si sbaglia, ci sono delle ragioni per le quali si sbaglia e se vuoi possiamo raccontarle. Ecco, sì, dobbiamo raccontarle. Io sai che sto pensando a una cosa che esula un po' dal libretto, mi viene in mente questo Sergio: se dovessero scegliermi per fare il testimone oculare di qualcosa che è successo, io avrei una paura pazzesca, perché sono convinto che il cervello con il tempo elabori e si possa inventare anche cose che non ha mai visto in realtà. E dandole invece per certe, e questo un po' mi spaventa, è possibile, no? Certamente, infatti la maggior parte delle volte ci sbagliamo. Se tu pensi, per esempio, prova a immaginare ad avere una moneta da 50 centesimi, sì, vista 100.000 volte. Certo. E se io ti chiedo cosa c'è dietro la moneta da 50 centesimi, lo sai? No. Dietro la moneta da 50 centesimi, beh, tutti voi potete andare a vedere, c'è un cavallo con un cavaliere. E se io ti chiedo se questo cavallo e questo cavaliere guardano a destra o a sinistra, lo sai? Assolutamente no. Eppure l'hai guardata 1.000 volte, l'hai tenuta in mano 1.000 volte. Un computer sbaglierebbe mai. Mentre noi abbiamo una memoria che è fallace, perché è molto veloce, è intuitiva. Fai conto, per esempio, che tu sei un uomo primitivo, sentivo e vede l'erba che si muove in lontananza. È ovvio che 999 volte su 1000 è il vento che la muove, però tu ogni volta scappi, perché quella volta che è la tigre ti mangia, quindi il tuo cervello si è formato per sbagliare, per proteggerti. Sbaglia perché è una macchina molto migliore di un computer che non sbaglia mai. Ma guarda, mi hai salvato la vita, Sergio, quindi quando faccio dei ragionamenti assolutamente illogici io dirò che sbaglio soltanto per imparare, perché sono più intelligente. Mi piace questa cosa. Allora, voi nel vostro libretto avete raccontato degli esperimenti che vanno, diciamo così, costruiti, però vogliamo proporvene alcuni che si possono raccontare per radio. Intanto procuratevi, perché la userete alla fine della nostra conversazione, procuratevi un foglio di carta normalissimo, un foglio A4 di quelli che usate per esempio per la stampante o il fax. Allora, Sergio, da cosa cominciamo? Quale illusione, quale inganno? Ce ne sono molte visive che gli ascoltatori possono trovare nel librettino, ce ne sono altre che invece tutti conosciamo. Per esempio, tutti sentiamo il mare quando appoggiamo la conchiglia sull'orecchio. Beh, certo, la conchiglia è stata nel mare, quindi è chiaro che lo si senta, no? È normale, giusto? Se noi mettiamo la conchiglia sull'orecchio, sentiamo questo rumore che non è certamente il mare, appunto. È che il nostro cervello riempie i vuoti con dei suoni, riempie quello, interpreta quello che succede. Quello che sentiamo nella conchiglia è un'illusione creata dal cervello. Non è il mare il suono che sentiamo, né è quello che leggiamo di solito su Wikipedia o sui vari siti, il sangue che corre nell'orecchio, perché anche questo non ha molto senso. È semplicemente il rumore di sottofondo che rimbomba e che il nostro cervello interpreta come le onde del mare che è una conchiglia. Chiaro, perché fa un'associazione mentale anche sull'oggetto, ovviamente. Sull'oggetto, se prendiamo una tazza del caffè, è uguale. Orecchio, ecco. Sentiamo uguale e dobbiamo assumere che la tazzina del caffè è stata nel mare. Chiaro, oppure che il caffè sta ribollendo, no? Una cosa del genere. Però... sta ribollendo, certo. Anche la luna ci inganna, vero Sergio? La luna ci inganna, se voi guardiamo quando la luna è alta nel cielo o quando la luna è sopra l'orizzonte, le vediamo con dimensioni diverse. Alta nel cielo ci sembra più piccola, sì, oppure grandissima. Abbiamo giocato tutti con questi effetti ancora una volta è il nostro cervello che interpreta l'immagine in maniera diversa. Quando noi vediamo la linea dell'orizzonte, la luna si proietta sulla nostra retina, che è la parte dell'occhio che riceve le immagini, e vede una linea, e l'interpretazione che il nostro cervello dà della luna sulla linea è che la luna è più grande, perché la linea la vediamo più vicina, quando invece non abbiamo le linee di riferimento la vediamo più lontana, e quindi lo stesso oggetto che è alla stessa distanza ci sembra più vicino o più lontano a seconda della proiezione che questo oggetto ha sul nostro occhio e quindi sul nostro cervello. Questo è molto interessante, Sergio. E a proposito di, appunto, riferimenti visivi, allora io vi ho fatto tenere un foglio di carta in mano e adesso voi dovete arrotolare in un senso o nell'altro, come volete voi, o il senso più lungo o quello più corto, ma non cambia niente. Un tubo bucato. Bisogna fare un tubo. Sì. No, non è che bisogna fare un tubo, bisogna costruire un tubo. Bisogna costruire un tubo e tenere tutti e due gli occhi aperti, sì. E questo tubo appoggiarlo su uno dei due occhi aperti e prendere la mano libera e metterla alla fine del tubo, non coprendo la parte finale del tubo, ma appoggiandola alla parte sul tubo finale. Bisogna appoggiare sul tubo senza tapparlo, ovviamente. Appoggiare sul tubo senza tappare. Quindi mettete la mano di fianco al tubo in modo da non tapparlo, ma dovete guardare il palmo della mano, no? Questo punto bisogna guardare un oggetto lontano, un oggetto qualunque, un amico, la mamma, un quadro che abbiamo davanti a noi, e vedrete che quell'oggetto, quella persona ci appare dentro il buco, un buco nella nostra mano. Ecco, avete la mano bucata, ovviamente. Abbiamo la mano bucata. E questa mano bucata è dovuta al fatto che i due occhi ricevono due impulsi diversi, uno attraverso il tubo e uno con l'occhio libero. Il nostro cervello non sa cosa fare, di solito costruisce l'immagine di una mano con un buco e con dentro questo buco l'immagine che vediamo. Ecco, quindi quando non avrete più soldi in tasca, in questo periodo devo dire che è facile, e qualcuno vi dice che spendete troppo, voi fate l'esperimento e dimostrate di avere le mani bucate, e quindi questo ha un senso. si chiama rivalità binoculare, cioè i due occhi rivaleggiano, competono per conquistare l'immagine, e quindi il nostro cervello ne interpreta una sola. È un gioco bellissimo che si può fare a tavola, a cena, quindi stasera quando siete a cena con la famiglia provate a farlo e stupirete i parenti ed amici. E di questi giochetti ce ne sono tantissimi nel librettino, spero che vi divertiate. Assolutamente, ci siamo divertiti molto, sì. Grazie Sergio Della Sala, grazie di Mai Fidarsi della Mente, N+1 Esperimenti. Buona Pasqua. Ciao, per capire come ci inganna e perché. Mai fidarsi della mente e mai fidarsi forse anche delle nostre parole. Francesca Dragotto, ciao, buona Pasqua. Ciao, buongiorno e tanti auguri. Anche a te. Allora, quali sorprese, ce ne sono milioni, che sono vicine alla lingua italiana. Da cosa cominciamo? Quale chicca hai trovato per noi? Allora, prima di arrivare alla chicca, anzi vi anticipo un filone di chicche, cominciamo proprio da sorpresa, che sì, è un composto del verbo latino per prendere, che letteralmente significa prendere da sopra, il significato di stupore, di meraviglia, noi lo abbiamo acquisito dagli esiti del medesimo verbo, ma dagli esiti francesi, intorno alla metà del 600. Una piccola curiosità è legata al diminutivo sorpresina, che intorno alla fine del 18 secolo indicava una pasta piccola di forma conica. Non so se dolce o salata, quindi bisognerebbe riscoprire la ricetta e per la prossima Pasqua preparare le sorprese. Guarda, adesso dopo questo tuo intervento sicuramente qualche importante ditta di pasta chiamerà le sorpresine, lo so già, lo vedo già sugli scaffali, guarda. Ecco, e noi le testeremo. Come no. Poi appunto per cercare di far provare stupore e meraviglia ho pensato di procedere con alcune etimologie a sorpresa, le prime isolate, e poi invece un vero e proprio filone come vi anticipavo poco fa. Sì. Per quanto riguarda il florileggio etimologico che vi propongo, dico florileggio perché così già a sorpresa dico che florileggio è la traduzione del greco antologia, che significa per l'appunto raccolta di fiori. Appunto, per il florileggio pensavo di proporvi il caso di osso sacro, della locuzione italiana osso sacro, che nasconde probabilmente un errore di traduzione, perché la radice da cui proviene è la radice iero di hieros, sacro, infatti la troviamo in hiereus, sacerdote, o nei famosi hieroglifica grammata, quindi i geroglifici, o anche in hierarches, che è colui che presiede un rito sacro. Però il fatto che sia stato tradotto osso sacro è appunto probabilmente un errore legato a una sovrainterpretazione proprio in virtù di questo carattere sacrale del termine, perché hieros in realtà inizialmente significava forte, robusto, e questo ben si spiega con la conformazione anatomica dell'osso. Certo, è un osso che deve sostenere il corpo, per cui è un osso robusto e non ha niente a che fare con il sacro. Quindi. Esattamente, quindi è un aggettivo descrittivo. Io credo che probabilmente la errata traduzione sia stata influenzata anche da hieranosos, letteralmente la malattia sacra, perché in questo caso è veramente sacra, ed è l'epilessia, perché sì, in effetti l'attacco epilettico può ricordare il sacerdote che viene invasato, che quindi riceve il dio ed è scosso, e allora in questo caso direi che si trattava di un hieros vero, ma non nel caso invece dell'osso. Ecco, insomma, che di sacro non ha proprio niente. No, no, no, non ha proprio niente. Poi, visto che credo che il tempo stringa, salterò altri casi che vi proporrò su Tuttopoli, quello ad esempio dell'etimologia di testa, una parola comunissima che però inizialmente indicava un vaso, e quello di examen, che in italiano ha dato tanto esame, tanto sciame, quindi insomma cerco di catturare la vostra curiosità invitandovi a venire su tuttopoli.com. Il filone con cui poi vi lascio, facciamo questa volta proprio un giochino etimologico al contrario, non partiamo dagli esiti italiani, partiamo dalla radice greca, partiamo da idios. La radice idios significa proprio, privato, personale, particolare, e ha dato, e variamente formata, ha dato idiosincrasia, una mescolanza di umori, noi oggi diciamo idiosincrasia per indicare un temperamento particolare, ha dato idiotes, che letteralmente è privato cittadino, uomo comune, ma che poi è passato ad indicare anche l'ignorante, l'incompetente, ha dato idioticos, incolto, sciocco, che è la stessa identica parola di zotico. Quindi zotico è una variante latina di una parola greca che appunto aveva inizialmente a che fare con il proprio, con il privato, ma che invece ha acquisito poi un carattere anche offensivo. Ecco, non c'è nulla di male quindi a sentirsi idioti, perché vuol dire che siamo cittadini comuni, giusto? Esattamente, letteralmente o almeno in senso etimologico sì, non c'è niente di male. E poi, e anche qui una sorpresa finale, la stessa radice è quella che troviamo in idioma, noi lo chiamiamo idioma, sì, riferito alla lingua, perché si tratterebbe di una particolarità linguistica, ognuno usa il proprio idioma perché chiaramente la lingua è uno dei caratteri che distingue un popolo da un altro e poi anche una persona da un'altra, visto che ciascuno di noi ha le proprie abitudini linguistiche. Ecco. Quindi ecco. No, voglio dire, se io vado in giro a dire idioma mi prendono per idiota, allora cosa devo dire? Invece è giusto dire idioma, anche se non si usa? È un cultismo ed è un grecismo, mentre la forma idioma noi l'abbiamo recepita dal latino. Spesso accade anche con nomi propri di personaggi molto, molto noti, Tesio o Teseo, Giasone o Giasone. Noi siamo imbevuti di cultura latina, allora se vogliamo riandare alla radice, visto che il greco seguiva un'accentazione diversa, allora possiamo appunto dire idioma o anche semplicemente idioma senza l'articolo e sicuramente affermiamo una cosa corretta, però se non vogliamo suscitare troppa sorpresa e troppo stupore continuiamo a dire idioma, però sapendo che almeno all'inizio in idioma nulla aveva a che fare in sé con la lingua. Bene, allora vi lascio alla pronuncia di infido o infido o infido, appunto. Infido. Certo, infatti l'ho svelata subito e quindi già il gioco è finito, ma qui questo è un altro bell'errore. Allora Francesca, grazie, buona Pasqua, grazie. No, per il tuo dimmi. Prima ti riformuliamo il gioco, sì. Perché infido e invece perfido? La radice è la stessa, eppure le accentazioni sono diverse. Dovrebbe essere perfido, cioè questo è il senso, no? Invece no. Dove è perfido, è giusto chiediamo così. Chiediamo qualcuno a spiegarci perché è perfido ma infido. Ecco, allora, è un po' complesso però. Fatecelo sapere, c'è Facebook, c'è Tuttopoli e c'è soprattutto Francesca Dragotto. Grazie, buona Pasqua ancora. Grazie, ancora auguri, arrivederci. Il riposo del guerriero. Tutto comincia da una fiaba persiana, i tre principi di Serendippo di Cristoforo Armeno, tre principi che sono alla ricerca di una principessa che non trovano, però durante il loro cammino scoprono cose che non si aspettavano affatto e da qui poi il termine serendipità. Di questo ci parla il professor Giulio Giorello, filosofo, matematico ed epistemologo italiano. Stavo aggiungendo un lodi troppo. Giulio Giorello, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Eccoci qua pronti a parlare di scienza e serendipità, perché tante volte gli scienziati si sono trovati di fronte a cose che non si aspettavano di trovare, immagino. Sì, la serendipità è un caso ricorrente nella storia delle scoperte scientifiche e direi anche nelle scoperte geografiche, sono state per molti casi il prototipo delle scoperte in senso più generale. Colombo cercava la sua principessa ed era, come voi ben sapete, la rotta per le Indie, però passando per Occidente. Non si immaginava minimamente di imbattersi in quello che poi sarebbe stato riconosciuto come un nuovo continente, il continente americano. Quindi quella di Colombo è una serendipità, perché è stato come un gioco di doppi errori, uno che compensa l'altro. Aveva sottostimato il diametro terrestre e quindi sperava di arrivare veramente prima, certo, nel di far cipango. Prima, chiaro. Ecco, ma e però altro errore, non sapeva che la rotta, come dire, era impedita dal continente americano. Quindi un errore compensa l'altro, un grande colpo di fortuna che poi Colombo, con una certa spregiudicatezza anche, seppe sfruttare per la sua stessa carriera. Ecco, i nostri nonni ci dicono sempre mai lasciare la strada vecchia per la nuova, invece in questo caso è meglio la nuova, ecco, altrimenti. In molti casi sì, è meglio la nuova, bisogna muoversi con talvolta con molto coraggio intellettuale, perché la serendipità non è solo fortuna, ci vuole anche la giusta preparazione. Prenda Galileo Galilei, sì. Riuscì a trovare quattro tra virgolette stelle che non si aspettava di trovare, in realtà non sono stelle nel senso tecnico del termine, sono pianeti di pianeti che ruotano intorno a Giove, cioè sono quelli che poi Keplero chiamò satelliti. ed era una grande scoperta perché, tra le altre cose, forniva un modello di sistema solare in miniatura e spiegava che non c'era solo la Terra nel sistema copernicano ad avere una sua luna, ma anche Giove ne aveva almeno quattro. Galileo è stato fortunato, aveva l'arma giusta, il suo cannocchiale, ma certo non aveva nessuna teoria che lo portava a pensare che proprio lì avrebbe trovato i pianeti Medici. E quindi la serendipità è appunto una combinazione di fortuna, di intelligenza, di coraggio. È un'occasione, ma bisogna anche saper cogliere l'occasione. Certo. E poi c'è una scoperta straordinaria che in molti ha salvato la vita e ancora oggi è efficacissima, la penicillina. È chiaro che Fleming, quando Alexander Fleming, quando sviluppava le sue ricerche, voleva, proprio sono parole quasi sue, farla finita con i microbi, come si diceva allora, i microbi vi odio, insomma, no? E però fu per la sua trascuratezza nel tenere i suoi vetrini con sopra delle sostanze spalmate che si accorse per puro caso che una muffa particolare faceva strage di una cultura di batteri, e da questa muffa nacque poi la penicillina. Ci vollero anni e anni di controlli, ma però appunto di nuovo la tensione intellettuale della persona si mescola alla fortuna, al bacio della sorte, all'occasione felice. Ma ci sono un mucchio di storie di questo genere. Prenda un'italiana, sì. Il professor Giacomo Rizzolatti, che è stato il grande scopritore dei neuroni specchio, scoperse questo meccanismo nelle scimmie proprio per puro caso. Una scimmietta cominciò a mostrarsi, tra virgolette, eccitata proprio quando vide che per puro caso un ricercatore dell'equipe aveva preso una spagnoletta e se la stava sgranocchiando. Sì. Lì si scoperse che gli stessi neuroni che si accendono quando si fa una certa azione, prendere la spagnoletta, si accendono anche quando la stessa azione viene compiuta da un essere sufficientemente simile. La racconto male, naturalmente. Chi volesse saperne di più, sì, potrebbe leggersi il bellissimo libro di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, So quel che fai, che è proprio dedicato alla storia del neurone specchio. Anche questo è un caso di serendipità che proprio tocca da vicino una gloria scientifica del nostro paese. Ecco, facciamo in modo che la serendipità possa entrare nelle nostre vite cambiando ogni tanto strada. Grazie Giulio Giorello e buona Pasqua ancora. Buona Pasqua anche a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie. E abbiamo visto scoperte, sentito soprattutto, ma ci sono anche invenzioni che nascono proprio per lo stesso principio, quello della casualità. Antonio Cianci, ciao, ben ritrovato, buona domenica e buona Pasqua. Buona domenica e buona Pasqua a tutti voi. Ecco, tu continui a pubblicare libri, abbiamo parlato di Eureka, le 100 invenzioni che hanno cambiato la nostra vita, poi ne è uscita una seconda edizione, poi adesso c'è l'Italia dei 1000 innovatori, del quale abbiamo parlato recentemente. Ma tornando alle tue ricerche sulle invenzioni, molte di queste sono nate da occasioni così di serendipità, si cercava una cosa e se ne è trovata un'altra. Ah, senza dubbio. Devo dire che il processo con cui nasce un'invenzione è tutto tranne che lineare. Spesso c'è solo l'intuizione del bisogno da soddisfare, però l'oggetto, quello che poi lo risolverà veramente, nasce spesso da condizioni inaspettate, oppure del tutto fortuite. Poi magari le invenzioni che ne nascono sono straordinarie e si raffinano. Pensiamo ad esempio ai cornflakes. I cornflakes nascono davvero da un errore. Viene lasciata una pasta di mais a seccare, si accorge che diventa croccante, che è buona da mangiare, che nel latte diventa straordinaria, e così i fratelli Kellogg, da questa, diciamo così, scoperta casuale e mettono su un impero. Oppure nasce dalla necessità di aiutare un bambino che magari ha un forte mal di schiena, che non riesce a guarire, per cui il papà, che è una fabbrica di pompe idrauliche, sì, decide di mettere la pompa dentro la vasca da bagno per dargli un getto di acqua che possa lenirne il dolore. Un massaggio, ecco. Roy Jacuzzi, e da questa straordinaria intuizione nata da un gesto d'amore nasce un impero che oggi poi addirittura ha portato il cognome Jacuzzi a diventare nome proprio e sì, si trova sui vocabolari come indicazione dell'idromassaggio, ma ce ne sono tantissime. Edwin Brandenburger stava mangiando al ristorante, sì, e macchia la tovaglia. Allora dice: ma se io riuscissi a individuare una sostanza di plastica che la protegge, potrei evitare che si sporcassero, chiaro, le tovaglie. Non ci riesce e invece inventa il cellophane, che oggi è forse uno degli strumenti più importanti per la salvaguardia e la protezione del cibo. Sono davvero tantissime le innovazioni che nascono in questo modo. Io ricordo Dunlop, se non mi sbaglio, che aveva la mania di fare delle forme di gomma di caucciù, di modellarlo, e poi preso, siccome la moglie continuava a dire di non dover modellare, guai se avesse continuato a modellare il caucciù, lì lo buttò nel camino, giusto, per non farsi scoprire. Esattamente, era Charles Goodyear, appassionato di gomma fin da piccolino, proprio lui si vestiva di gomma, sì, però il caucciù non andava bene perché, essendo naturale, non poteva essere modellato come avrebbe voluto, sì. La moglie, che non voleva che lui perdesse tempo tutto il giorno, lo costringeva a lavorare di nascosto, così lui dovesse buttare nel fuoco per non essere scoperto il caucciù, e nasce la gomma vulcanizzata, da cui poi successivamente Joseph Stirling, un imprenditore americano, decise di mettere su la fabbrica di automobili e diede il nome Goodyear in onore di Charles Goodyear, che allo pneumatico. Per cui vediamo che la serendipità, in effetti, nella vita di tutti i giorni serve per scoprire nuove strade e anche inventare nuove cose. Guai se non ci fossero stati quegli errori. Grazie Antonio Cianci per le tue sorprese e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi, ciao. Il riposo del guerriero. Nella giornata delle sorprese, il riposo del guerriero, adesso vi dà l'opportunità di così scoprire delle situazioni nuove anche a casa vostra. Maria Rosaria Giannese, buona domenica, buona Pasqua. Buona domenica e buona Pasqua anche a lei. La professoressa Giannese, insieme a Giovanna De Palma, ha scritto un libro intitolato Chi mi capisce? La chimica nella vita di ogni giorno. Esperimenti semplici per tutti, perché noi non lo sappiamo, però a casa abbiamo a volte gli ingredienti che si possono usare per gli esperimenti chimici. Certamente, certamente. Prodotti semplicissimi, bicarbonato, aceto e quant'altro, che possono essere usati benissimo per i nostri esperimenti. Noi avevamo notato che i nostri alunni avevano una preparazione troppo teorica e quindi abbiamo pensato di non scoprire cose eccezionali, ma di fare questi esperimenti e adattarli soprattutto ad alunni, ecco, delle scuole elementari. Però ecco, professoressa, guardi che questo tipo di esperimenti piacciono molto anche agli adulti, perché scoprono delle reazioni che non si aspettavano, che magari hanno studiato, come dice lei, teoricamente, invece poi praticamente è tutta un'altra sorpresa. Ma infatti il nostro libro serviva anche a stimolare i genitori in maniera tale che potessero stare con i propri figli, giocare con loro e, perché no, semmai ricordare qualcosa che avevano fatto durante il loro percorso scolastico. Ecco, allora in questa domenica di Pasqua e magari domani anche durante la merenda, che cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per stupire i nostri amici, i nostri parenti? Per esempio possono fare un vulcano, una lava finta, un vulcano. Prendere un cartoncino, fare un cono, sì, mettere all'interno un barattolo di vetro piuttosto alto, mettere all'interno del barattolo dell'aceto, un bianco dell'uovo, il colorante e poi del bicarbonato. Si produce questa schiuma che viene fuori e sembra proprio un'eruzione vulcanica. Il colorante rosso magari? Certo. L'anilina sarebbe perfetta. Perfetto. Ecco, va benissimo. Allora, quindi abbiamo costruito il nostro primo vulcano e non ho neanche, già mi incuriosisce, e adesso appena arrivo a casa trovo subito gli ingredienti. Poi cosa possiamo fare ancora? Per esempio mettere in una vaschetta dell'acqua con del detersivo per i piatti e anche un po', se c'è un po' di zucchero, ma insomma c'è sempre in casa, sì, E poi prendere due cannucce e mettere all'interno una cordicella e fare una specie di telaio, due lati con la cannuccia e due lati con la cordicella, sì. E inserendo nella vaschetta si formano delle belle bolle di sapone. Però spiegare anche ai bambini che questo è un fenomeno fisico, quello si chiama tensione superficiale ed è una proprietà dell'acqua. E serve, per esempio, il motivo per cui le zanzare camminano sull'acqua, diciamo, sì. Insomma, gli animaletti molto piccoli, per questa proprietà dell'acqua. Ecco, ma io come devo legare le corde con le cannucce? Devo inserire... Deve passare all'interno delle cannucce. Quindi devo creare una sorta di telaio. Un telaio da quattro lati, due formati da corde, cannucce, sì. E due dalla cordicella, quindi... chiuso poi con un nodo. Un nodo, quindi intingo questo telaio, diciamo, sì. Così, nel... tenendolo con le dita dove c'è la cannuccia. E poi lo intinge appena e poi lo solleva lentamente. Vedrà innanzitutto che la cordicella si avvicina, cioè non rimane tesa, sì. Proprio per questa proprietà che le dicevo, e si formerà una grande bolla di sapone. Ma devo soffiare all'interno o basta l'aria intorno a me? Non deve soffiare niente. Poi, cioè la bolla si forma, poi se lei soffia, allora si deforma. Ecco, adesso proveremo anche questo, tanto le cannucce e la colda le troviamo. Ha qualche altro esperimento da farci per fare? Per esempio l'altro giorno io facendo un corso con i bambini delle elementari, usando la cera Pongo, hanno fatto delle piccole tortine, sì? Abbiamo pesato, finte ovviamente, sì, quindi certo. non da mangiare, abbiamo pesato tutti i pezzettini di cera Pongo prima e dopo la realizzazione e abbiamo verificato che la massa era uguale e quindi abbiamo verificato la legge di Lavoisier, la legge della conservazione della massa. Ecco, per cui averne professoresse come lei, Maria Rosaria Giannese, davvero, perché la scienza si può imparare soltanto in questo modo. La teoria non ci affascina mai, invece la pratica ci affascina molto. Grazie davvero per il suo e vostro libro, visto che l'ha scritto insieme a Giovanna De Parma. Chi mi capisce? La chimica nella vita di ogni giorno, esperimenti semplici per tutti. Buona Pasqua e buona domenica. Grazie anche a lei, arrivederci. E andiamo avanti, parlando di sorprese, ce ne sono tante, anche grazie alla rete, al digitale, ai software. Fables, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno, buona domenica. Allora, parliamo di Easter Egg, letteralmente uova di Pasqua. In realtà, in gergo, sono quelle sorprese che i programmatori inseriscono nei loro programmi, appunto nel software che creano oppure nelle pagine internet che andiamo a visitare. Sì, esattamente, sono diciamo dei contenuti nascosti che l'utente può magari trovare in maniera molto semplice, magari con dei passaggi di click, pigiando dei tasti in particolare o magari inserendo una serie di codici, di lettere. Quindi così come Easter Egg rappresenta l'uovo di Pasqua con la sorpresa o identifica diciamo la caccia all'uovo, quindi trovare appunto un qualcosa di insolito, di inusuale, così succede anche magari all'interno di software, molto spesso, non so, per motori di ricerca, browser, ma soprattutto dagli anni 80 a oggi all'interno dei videogiochi. Faccio alcuni esempi, visto che poi tra tutti quanti Google è per esempio forse quello che utilizza più spesso. A me non funzionano mai quelli di Google, mi arrabbio. Guarda, tantissimo. Ce ne sono alcuni che funzionano sicuramente. Ad esempio, se tu digiti sulla barra di ricerca do a barrel roll, vale a dire fai un giro a 360 gradi, però in inglese, lo devi scrivere, tu vedrai che tutto quanto la schermata fa appunto un giro a 360 gradi. Questo non è fatto casualmente, ma perché già in un videogioco della Nintendo della metà degli anni 90 c'era il personaggio principale che era appunto tenuto durante il gioco ad effettuare un giro a 360 gradi. O ad esempio lo scorso inverno, sempre su Google, scrivendo Let it snow, potevamo vedere appunto dei fiocchi di neve che cadevano virtualmente ovviamente sullo schermo. Sì, andando a posizionarsi appunto sotto. Ecco, ma devi premere su mi sento fortunato o anche senza premere? Allora, non è necessario. Il mi sento fortunato è un altro, diciamo, di quegli elementi che vengono spesso utilizzati. No, questo che ti ho detto adesso ti basta andare a fare la semplice ricerca su Google. Sì. Ad esempio, il mi sento fortunato viene utilizzato per andare a cercare delle lingue speciali, vale a dire, non so se conosci l'alfabeto LIT, quello diciamo di tipo tecnologico, quello informatico, più che altro una sorta di slang tecnologico che viene parlato in rete. Se tu scrivi Google LIT, scritto L33T, e poi tu mi sento fortunato, puoi trovare ad esempio un Google scritto in alfabeto LIT. Ecco, quindi al posto di usare la lettera E dovete usare il numero 3. Il numero 3. Okay. Il mi sento fortunato è stato utilizzato anche per alcune diciamo, giochini divertenti. Ad esempio, non so se sai il meme di Chuck Norris, che Chuck Norris è in grado di fare qualsiasi cosa. E quindi cos'è in grado di fare? Ecco, se tu vai per esempio su Google a scrivere "Where is Chuck Norris?", dov'è Chuck Norris? Sì. E vai su "Mi sento fortunato", lui ti scriverà "È impossibile trovare Chuck Norris, al massimo sarà lui che troverà te". Ecco, come al solito. Oppure, non so se ti ricordi la guida intergalattica per autostoppisti, come no, dove ti dicevano che il significato della vita è il numero 42. Sì. Che era questo numero analizzato da un grandissimo computer che poi si trovava alla fine del film. Stessa cosa, se vai su Google e scrivi la risposta alla vita, all'universo e a qualsiasi cosa, ovviamente anche questo in inglese, quindi sì, "Answer to life, the universe and everything", tu andrai a fare di nuovo "Mi sento fortunato" e ti uscirà fuori, il risultato è 42. Ecco, va bene, quindi anche qui ci sono una serie di... Esatto, ed è veramente pieno, vi invito a scoprirli attraverso la rete e chiederli anche magari a Fables, il suo sito è blogguerriglia.it. Grazie Fables e buona Pasqua. Grazie a te, buona Pasqua. Ciao. Andiamo avanti, c'è il GR e poi continuano le sorprese con il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica e buona Pasqua. Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero su Radio 24. Oggi la puntata è dedicata alle sorprese e una sorpresa ce la sta facendo Arturo Bracchetti. Ciao Arturo, buona domenica, buona Pasqua. Ciao, buona Pasqua a tutti. Allora, c'è un Arturo Bracchetti che magari le persone non si aspettano, perché non sei solo un trasformista, ma trasformi anche la tua vita in tante altre attività, tante cose, una delle quali sarai il regista, possiamo dirlo, credo anche il conduttore di questo. Sì. Convention magica che si terrà a San Vincent, 19-22 aprile. Esattamente, che è il campionato, non dico europeo, ma quasi, di magia, e quindi San Vincent diventa l'università di Hogwarts dove tutti gli Harry Potter si contenderanno il premio, che è il grande premio Master of Magic. Ma a parte questo, la sorpresa è anche che sono nel programma proprio di sorprese televisivo per eccellenza, perché farò Scherzi a parte per qualche puntata, cominciando da domani sera, quindi. Ecco, quindi non possiamo sapere niente, immagino. Non si può dire, perché sennò che sorpresa è? Esatto, quindi neanche una chicca, zero, io sai che devo chiedertelo, sono obbligato. Io sono l'uomo dai mille volti, quindi potrò trasformarmi in qualsiasi cosa, con questo ti ho già detto qualcosa. Va bene, allora, quindi abbiamo capito che Arturo Bracchetti, per esempio, è regista. Sì, però dico anche della vita, un po' di sorprese le faccio. Sì, tipo? Ma sì, per esempio, io una volta facevo il filo una e volevo farla impressionarla, e quindi mi sono travestito da motociclista, sai quelli lì che vanno a portare i Pony Express, no? Sì. Quindi mi sono messo la parrucca, gli occhiali da sole, il casco, arrivo nel bar dove c'era questa qua con le sue amiche, gli porto questa busta che era il mio regalo, la mia sorpresa. E questa rimane un po' interdetta, perché ovviamente come cavolo hanno fatto a trovarmi qui in questo bar, e poi me ne esco e dentro c'era un CD che io sapevo le sarebbe piaciuto. Poi dopo un po' questa mi chiama e mi fa: "Ma sai, mi hanno portato una sorpresa incredibile, un regalo, proprio il CD che cercavo". Ma dico: "Ma chi te l'ha portata?". "Ma uno di quei mezzi drogati che fanno i pezzi". Certo, dico: "Ma che ero io". Allora, dopo alcuni giorni, non subito, ho confessato che appunto ero io, quello lì del motociclista. Certo. Si è spaventata, sai. Senti. Fosse uno schizofrenico, non mi è più cagato per una settimana o due. Vabbè, quindi, non è... quindi utilizzateli, ma con cautela. Dovete sapere che Arturo ama molto fare gli scherzi. Io mi ricorderò sempre una volta, eravamo insieme. Arturo aveva un apparecchio elettronico che emette peti, cioè sai fare rumore dei peti. È conosciuto, The Fart Machine. Esatto. The International Fart Machine. Ma che non vi dico sull'ascensore cosa ha combinato. Sì, perché uno fa così, poi ci si guarda in baranza. Quello è un must, quello fa. Poi ho anche, che ne so, c'è un bambino, una specie di neonato, sì, un bambolotto fantastico, un neonato che piange con le allora io lo prendo, lo appendo al vetro della macchina, no? Dall'interno, con le ditine appiccicate nel vetro, e tu da fuori si vede questo neonato, questo bambino di 6 mesi con una smorfia che sta piangendo appeso al vetrino, e devi vedere la faccia dei, soprattutto dei bambini delle altre macchine. macchine, ai semafori. Ecco, non vorrei che qualcuno chiamasse poi i carabinieri perché dicono maltrattamento. Sai che se metti il piede finto, la mano finta fuori del cofano, ti possono anche fare una multa perché tu provochi comunque delle distrazioni nel traffico. Certo, io l'ho fatto. C'è uno scherzo che non hai ancora fatto ma che vorresti fare? Oddio, ce ne sono tanti che uno vorrebbe fare, però poi dopo ho paura che finisce male, oppure la persona veramente ci sta male. Mi piace molto pensarli gli scherzi, poi magari farli un po' mi piace, però i cattivi non si fanno, si pensano. Esatto, e basta, quello almeno siamo... Se lo pensi tra amici il godimento è già abbastanza assicurato. Siamo perdonati, allora sappiamo che sei pieno di impegni, buona Pasqua davvero, grazie Arturo, vi ricordo la convention magica a San Vincenzo 19-22 aprile per appunto Masters of Magic e poi anche scherzi a parte e quindi vedremo un Arturo forse invisibile perché da quello che ho capito sarai anche travestito quindi non sì, ti vedremo adesso, ecco. La prima puntata farò invece uno dei miei pezzi forti, nelle prossime mi sorprenderò. Ok, grazie Arturo, cercheremo di scoprire dove sei. Ciao, grazie, magari è di fianco a noi travestito da benzinaio, dico, ci fa il pieno e non sappiamo che è lui, quindi bisogna stare attenti. A proposito di movimenti di viaggi, Arturo Brachetti è sempre in viaggio per il mondo, ovviamente grazie alla sua popolarità e alla sua indiscussa bravura, grazie al cielo molto apprezzata in tutto il mondo e finalmente anche noi italiani abbiamo capito la sua grandezza. Parliamo di viaggi con Francesca Benati. Francesca, buona domenica. Buona domenica e buona Pasqua a tutti voi. Anche a te Francesca Benati, amministratore grazie. Delegato di lastminute.com, Italia e Spagna, e lastminute.com spesso fa dei sondaggi. Ce n'è uno che però vogliamo anticiparvi perché in realtà non è ancora uscito, uscirà tra un po', che riguarda proprio le sorprese che chi viaggia vorrebbe trovare oppure non vorrebbe affatto trovare, sono anche le sorprese meno belle. Sì, assolutamente. Diciamo che le sorprese meno belle sono di gran lunga quelle più citate dai nostri viaggiatori italiani rispetto a quelle più piacevoli. Quindi quali sono le cose che uno non vorrebbe mai trovarsi, invece purtroppo potrebbe capitargli? Beh, allora, le due cose fondamentali per i viaggiatori italiani sono una pulizia inesistente della stanza, ben il 41% degli intervistati ha detto la stanza sporca, no, sì. E la seconda cosa, una struttura totalmente diversa rispetto a quanto illustrato e descritto prevalentemente sul web, quindi un 30% dice non voglio sorprese. Ecco, in questo caso però uno potrebbe, non so, farsi ridare il denaro speso se la struttura non è come quella che ha visto. Assolutamente sì, infatti noi come servizio clienti seguiamo poi quando dovessero capitare queste cose e poi in realtà quando succede poi vengono prese delle misure molto restrittive anche nei confronti dell'albergatore e quindi gli viene anche inibito di poter essere venduto su certi Chiaro. Siti perché è fondamentale la fedeltà rispetto a quello comunicato soprattutto per gli utenti che comprano online è un elemento fondamentale. Chiaro, mentre magari la pulizia è un po' più difficile da dimostrare, bisogna fare delle fotografie, far capire, sì. Invece la struttura chiaramente diversa, quella è molto semplice da dimostrare, quindi. Assolutamente sì, infatti in terza posizione viene un bagno in pessime condizioni con sanitari malfunzionanti, questa è un'altra cosa evidente che si può dimostrare. Insomma, gli italiani vogliono stare comodi e puliti quando vanno in vacanza, questo è fondamentale, abbiamo capito. Sì, assolutamente sì. Poi invece ci sono anche delle sorprese belle, ci si trova in un posto e si scopre che, quali sono le cose più piacevoli? Ma le cose più piacevoli citate qua sono stati veramente fantasiosi e creativi. La prima cosa è stata quello di la cosa più piacevole in assoluto è avere un upgrade di camera. Sì, lo confesso, è successo anche a me ed è stata una cosa che mi ha fatto legare a quell'hotel per tutta la vita. Adesso ogni volta vado lì vado in quell'albergo perché mi hanno fatto un upgrade in una suite che non mi aspettavo e mi ha fatto proprio piacere. E probabilmente è stata la prima e unica volta, ma tu ci tornerai lo stesso. Assolutamente sì. Sperando che ricapiti. No, comunque capita, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda gli albergatori italiani, in questo sono molto attenti, per cui se possono lo fanno. Un altro aspetto piacevolissimo è avere magari servizi gratuiti, tipo il wifi, scoprire che il wifi non si paga. È gratis, non si paga, oppure che c'è una palestra a disposizione che non si conosceva. Poi ci sono cose anche più divertenti, tipo scoprire che nello stesso albergo alloggia un vicino di camera che può essere un VIP. Allora questo fa molta leva sull'aspetto aspirazionale. male. Chiaro, a me non interesserebbe, però va bene. Cioè, neanche a me, personalmente, per questo che ti ho detto sono stati molto creativi. Quindi comunque sia, comunque... i servizi sono la cosa che le persone apprezzano di più in generale. Sì, assolutamente, infatti tra le cose citate come le più spiacevoli che si sono dovute affrontare... riguarda sempre i servizi, che è il personale scortese o addirittura assente, è stato citato nel 25% dei casi come la cosa che dà in assoluto più fastidio. Ecco, speriamo allora che queste cose non capitino più, lo diciamo perché è giusto, si offre un prodotto, un servizio, bisogna rispettare quello che si promette, e speriamo anche di avere invece delle belle sorprese come quelle che sono capitate, e siccome sono capitate anche a me, dico, succede davvero, almeno negli alberghi italiani ma anche in tutto il mondo. Grazie Francesca Benati e buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua anche a voi. Il riposo del guerriero. Sorprese e ancora sorprese, mi piacerebbe scoprire anche quelle che avete trovato dentro le uova di Pasqua, oppure che troverete fra poco se le riceverete. E sorprese anche dovute a personaggi lanciati dalla televisione, per esempio, e che hanno avuto particolare successo perché particolarmente bravi a fare quello che sono stati chiamati a fare. Un esempio è Virginia Raffaele, che prima aveva imitato Ornella Vanoni con gran gusto, devo dire, e anche molto bene, ma non tanto quanto sia riuscita la sua imitazione di Belen Rodriguez, tant'è vero che a volte è diverso, è difficile scoprire quale sia una e quale sia l'altra. Sentiamola in un momento di Quelli che è il calcio. Benvenuti, benvenuti a Italia col Talent. Oggi ci saranno tantissimi concorrenti, tantissimi talenti, e ne vedremo delle belle. Io ho visto il provini, vi assicuro che sarà una puntata con tante sorprese. Scusa, Belen, cosa ci fai qua? Ecco la prima, una bambina, facciamo un applauso. Ma brava! Scusami, Belen, non sono una bambina. Allora, da dove vieni? Che cosa fai tu? La magia? Ti spogli nuda? Che cosa fai? Canti? Suoni pizzaro? Che fai? No, sono Vittoria, vengo da Milano. Va bene, allora questo, tu mi devi dire che cosa fai, qual è il tuo talento, no? Che fai? Canti, balli, ti ho detto, no? Fai la magia? No, io non so fare niente, non so, conduco il programma. Sei una comica, vieni da me a Colorado allora. No, io sono la conduttrice di Quelli che è il calcio, Vittoria Cabello, sì? Domenica pomeriggio. Ah, ma che brava! E ora? E ora posso presentare l'ospite, il primo talento che si esibisce? No, anche perché qua dietro c'è J-Ax pronto sul palco ad esibirsi. Allora lo presento io, Allora, il primo talento si chiama J-Ax, ha un nome che sembra un detersivo, però è un grande cantante italiano. I suoi testi di rap sono i più... rap, J-Ax, fa rap. Sì, è il correttore automatico, scusa. Ah, certo. E i suoi testi del rap sono i più amati dei giovani italiani. Oggi è qui e farà il suo numero cantando la canzone Tutta Scena. E alla fine tenetevi forte perché farà tre salti mortali e poi si darà fuoco. Non fatelo a casa! Vabbè! Straordinaria Virginia Raffaele, vi invito anche a vederla su YouTube, ci sono tanti momenti delle sue imitazioni di Belen Rodriguez, ben fatta, e tra l'altro anche una bella ragazza, e quindi le gambe rendono tanto quanto quelle di Belen. Un altro personaggio che non è notoriamente un'attrice in questo caso, ma che abbiamo imparato a conoscere grazie a X Factor, è Mara Maionchi, che è stata presa in prestito da Aldo Giovanni Giacomo nel film La Banda dei Babbi Natale, e il suo cameo è stato particolarmente divertente. Eccolo qui. Dunque, signora, ha già scelto l'acconciatura per il suo bambino? O vogliamo sfogliare il catalogo? Ma chi è sto Africa qua? Veramente sono nato normanno in terra sicura. Allora, vogliamo vedere questo bambino? Io sfoglierei un attimo. Quindi dagli un occhio, sì, certo, le manacce, certo, cosa. Posso... morde questo cane. Allora, come le persone faccio? Che non sono capaci, le morde. No, stai fermo. Allora, devo fargli l'anestesia, no, mi spiace. Ma cosa fai, il macellaio? No, devi darmi una mano. Cosa hai fatto? Ho sbagliato. E adesso? È la sotteriana. E il cane? Anche lui. Malgrado l'anestesia fatta a Mara Maionchi, suocera in questo caso, lei non riusciva a non ridere, cioè anche doveva fare la morta, non la morta ma l'addormentata, quando riusciva a non ridere, un po' si capisce anche nel film, che c'ha sto sorriso stampato comunque sulla bocca. Un'altra sorpresa, a mio avviso, è quella di Christian De Sica, regista e anche autore di The Clan, un film che vede tre protagonisti italiani andare negli Stati Uniti alla ricerca della felicità, nel senso che il loro scopo è quello di diventare degli artisti dello spettacolo. Christian De Sica è un grande appassionato di avant spettacolo. In questo film ha tentato di mostrare quanto sia bravo a farlo. Dal mio punto di vista è veramente un talento, è bravissimo, e ho scelto da questo film un momento, una delle tante canzoni che vengono interpretate in questa pellicola, The Clan. Ma Ramon, perché sei morto? Grazie. E tu non rispondi più, Maramao, Maramao, fallo e dici in coro. Maramao, Maramao, Maramao, Maramao, Maramao. Questo è tra l'altro un momento di tip tap, perché appunto Christian De Sica ama molto anche questo genere. La storia è loro tre che in questo momento stanno facendo un provino e credono di aver fatto una cosa strepitosa, e invece i tre giudici che li dovrebbero scegliere per un grande show rimangono un po' perplessi, però molto incuriositi. Poi non vi dico come va a finire il film The Clan, avete la possibilità di vederlo, magari potrebbe essere, se vi piace un po' questo genere. E l'ultimo contributo che abbiamo scelto riguarda un personaggio comico, che è Luciana Littizzetto, che è stata chiamata per interpretare un piccolo ruolo in un film molto interessante intitolato Cover Boy, e volevo proporvi questo momento del dialogo. Numero uno, mi devi i soldi dell'affitto. Numero due, l'amico tuo, l'amico ciliegia. O smam, o ti aumento la pigione. Numero tre, cosa le racconti a fare tutte ste balle a tua madre? Vorrei sapere che gli racconti tu ai tuoi. Che gli racconto? La verità. Che faccio l'attrice. Tu attrice? Comparsa. Generica parlante. Ma tutto il mondo del cinema italiano sa perché non l'ho sfondato. E perché? Perché non mi sono fatta sfondare, perché me la sono tenuta stretta, sennò a quest'ora, sulle croisette europee, a prendere non uno, ma 10 palmarès. Ma cosa lo dico a fare a te? Ecco, infatti, dillo al cane che forse lui ci crede. Carigliaschi, vai! Eccola qui Luciana Littizzetto in versione attrice. Il film appunto era Cover Boy. Insomma, sorprese di personaggi che fanno qualcos'altro e che ci sorprendono, ci meravigliano anche in questa altra attività. E a proposito di sorprese, e vista anche l'ora, è il momento di ascoltare il nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua anche a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. Quali sono le sorprese che ci proponi oggi? Non so se nelle uova, oppure in tavola, oppure nei nostri bicchieri. Ma guarda, si può. Le uova, la sorpresa di solito non è gastronomica dentro, però mi ricordo un particolare di un cioccolatiere molto famoso, che un giorno sono sceso nel suo laboratorio e mi ha raccontato delle cose veramente incredibili, cosa ci si mette dentro le uova di Pasqua. Mi diceva che c'era un cliente che gli aveva fatto fare un uomo di Pasqua enorme per mettere dentro la pelliccia di visone da regalare alla sua amata, addirittura. E sempre lui mi ha raccontato un'altra volta che ha dovuto fare un uovo abbastanza grande, però dentro c'erano le chiavi della Ferrari, di una Ferrari. Quindi, come vedi, le sorprese molti le hanno a Pasqua, sicuramente. Quest'anno non lo so se sono così ricche le sorprese. Magari solo la fotografia di un'automobile, basta. Solo la fotografia. Ma dirò che di sorprese io ne ho avute l'altro giorno e credo che possa essere una sorpresa anche a basso costo, nel senso che si può andare a vedere. Andare in una specie, una grandissima cantina, la cantina di quelle di una volta, e trovarsi attorniato da 5.000 culatelli, una roba incredibile, fantastica, e devo dire che appunto è l'Italia delle sorprese, ben 5.000 curatelli che entri dentro, senti già un profumo e praticamente ti pare già di avere mangiato dopo aver sentito quel profumo. Sei soddisfatto così? Eh sì, sei soddisfatto così. Beh, non solo, cioè sorprese, devo dire che ultimamente ne ho avute anche sul vino, ho sentito un vino sardo, un vermentino, sì, che si chiama Matteu, e devo dire è una bottiglia che avevo da, mi sembra, 2 anni in cantina, e l'ho aperta, è un bianco, ovviamente, bianchi, sai, si dice sempre che non tengono molto. Sì, di solito si bevono subito. Era 2 anni più 2, 4, e devo dire che ho bevuto uno dei più grandi vini bianchi italiani che avessi mai bevuto in vita mia. E sorprese si hanno, secondo me, ogni giorno dal punto di vista gastronomico, amare e dolci, perché molte volte ci sono delle sorprese che sono anche molto ma molto amare. Quindi... Ce n'è una particolarmente brutta che ti è capitata, che non vorresti ti ricapitasse, proprio che ha a che fare con il gusto, magari in un posto dove sei stato? Ma sì, queste diciamo che sono diverse, perché bisogna anche ammettere la verità, che sì, si mangia bene ma si hanno anche delle sorprese. Ma ultimamente ho avuto in un ristorante di cui ne avevo sentito parlare così bene, sì, e sono andato e sono rimasto molto ma molto deluso, ma non tanto per il prezzo, forse molte volte succede che la delusione arriva anche da magari i grandi elogi che vengono fatti a un posto, allora tu vai già pensando a cose straordinarie, poi in realtà ti siedi e ti accorgi che proprio è tutta un'altra cosa. È come succede quando ti parlano molto bene di un film e quindi tu ti aspetti di vedere, poi mancabilmente l'aspettativa è sempre un po' diversa, ma meglio non sapere niente e quindi scoprire una cosa in generale. Però voglio dirti che io ho sempre, ecco, diciamo, ci rifacciamo proprio a Pasqua, sì, e alle sorprese di Pasqua. Io non ho mai amato la colomba, è noto che io adoro il panettone. Il panettone. Lo so. Quest'anno devo dire che ho cominciato a ricredermi, perché credo che anche sulla colomba ci sono stati dei passi in avanti di molti pasticceri. Beh, pasticceri anche bravi, insomma. Ad esempio ho assaggiato la colomba della boutique del dolce di Concorezzo, del pasticcere Zoia, che è famosissimo, eccellente. Ho sentito quella di Gino Massari, pasticceria veneto di Brescia, altrettanto interessante. Uno, un produttore che non avevo mai conosciuto, un pasticcere addirittura di Pioltello, in provincia di Milano, si chiama Merlo, e la pasticceria, e anche quello mi ha molto sorpreso. E poi devo dire un'ultima cosa, che io adoro infinitivamente, specie in questo periodo, ma sempre, tutto l'anno, ma non è tutto l'anno il periodo giusto, la pastiera napoletana. Ammetto che è il mio dolce preferito, proprio lo adoro, e io quando vedo la pastiera impazzisco, mi fa veramente molto piacere mangiarla, la trovo un dolce completo. Ebbene, le pastiere, uno sa, sono napoletane, quindi si mangiano benissimo a Napoli. Un tempo c'era questa pasticceria Scaturchio, che era un marchio che è veramente straordinario, della pasticceria, lo è ancora, ma non sicuramente come era 10-15 anni fa, perché so che c'è stato un cambio di proprietà, è ancora buona, devo dire, però cioè, allora era ancora meglio. Poi di un'altra pasticceria che ho trovato a Napoli, che anzi è un genere alimentari, che fa questa pastiera durante il periodo pasquale, che si chiama Fusco, e che fa anche un casatiello veramente di grandissimo livello, ecco perché l'altro diciamo dolce del periodo napoletano è il casatiello. E ti dicevo che ho avuto la sorpresa perché appunto Zoia, della pasticceria boutique del dolce di Concorezzo, che è in provincia di, mi sembra, non so se è Lecco, sì, forse Lecco Monza. Insomma. Forse Monza Brianza, Monza Brianza. Sì. Ebbene, cioè, c'ha una tradizione della pastiera, e ho assaggiato anche la sua pastiera proprio oggi, e mi è piaciuta da morire. Ecco, vabbè, quindi questa è una sorpresa di Davide Paolini, sono già 2. La pastiera un po' la sapevamo, ma che adesso tu così abbia un sapore e un'attenzione particolare anche per la colomba, questo un po' ci sorprende, sì, va bene. Ecco. Ma, è la sorella minore. Esatto, quindi, succederà, succederà che a Natale mangeremo la colomba, visto che tu proponi il panettone a Ferragosto, no? Giusto. Sì, ecco. Magari lo proponiamo. proporrò in pieno inverno. Esatto, ma ci sta. Per l'ultimo dell'anno. Esatto, e va bene. Via con la colomba, via con la colomba ghiacciata. È un bel modo per augurarsi un buon inizio anno. Grazie Davide, buona Pasqua. Buona Pasqua, di nuovo buona Pasqua a tutti. Ciao. Il riposo del guerriero. E in questa domenica di Pasqua non poteva mancare il nostro Enrico Groppali. Ciao Enrico, buona Pasqua. Ciao Stefano, buona Pasqua e che sia felice non solo per questo fine settimana, ma piena di auguri pienamente realizzati. Credo che ogni essere umano abbia bisogno di auguri ogni giorno della propria vita. Siamo d'accordo con te e ti osanniamo per questo, questo augurio che prendiamo con il cuore. Le sorprese che ti sono capitate, così, che hai trovato di fronte a te intervistando e conoscendo, sono tantissime, e anche quelle che magari abbiamo scoperto guardando delle pellicole o leggendo dei libri. Da dove cominciamo, Enrico? Cominciamo da un fatto recente, che è una scoperta. Ferzan Özpetek, nel suo ultimo film Magnifica Presenza, lui che ha sempre inserito nei suoi film, diciamo, un omaggio alle divine del passato, non so, da Lisa Gastoni, che è tornata per lui allo schermo dopo moltissimi anni in Cuore Sacro, da Lucia Bosein, Amam Suare e altre cose, questa volta in Magnifica Presenza, il suo ultimo film, ha scoperto Anna Proclemer, che ha avuto il coraggio, da grande attrice qual è, di apparire senza veli, senza ritocchi, mostrando con orgoglio, fierezza e un pizzico di audacia e con grande intelligenza la sua età, non più giovanissima, perché la signora ha l'età del suo fedele partner e compagno per tanti anni, Giorgio Albertazzi, cioè quasi 89 anni, ed è apparsa come addirittura come una spietata traditrice del proprio passato di eroina romantica e, diciamo, di eroina della comprensione umana nei confronti dei suoi compagni di lavoro. Parlo naturalmente non di lei stessa, ma del suo personaggio in questo film, che è molto interessante da vedere appunto per il grande cameo, dico grande, che assume la nostra straordinaria attrice in questo film. Ma ci sono per esempio delle altre cose del passato molto curiose che si possono proprio inquadrare sotto le easter eggs, le uova di Pasqua. Per esempio, nel lontano 1965, la signora Elizabeth Taylor, recente sposa del suo quinto marito Richard Burton, proprio per Pasqua capitò improvvisamente, truccata da bionda e da instabile e seduttrice e cameriera di locanda del Medioevo, capitò sul set di Beckett e il suo re, che suo marito stava interpretando accanto a Peter O'Toole, e al posto di una comparsa servì loro la colazione. La cosa finì in una grande risata collettiva con uova di Pasqua che Elizabeth aveva portato con sé e che distribuì allegramente a tutte le truppe. Un altro uovo di Pasqua, se si può così dire, sì, fu quello che una Chaplin, che era prima di tutto una O'Neill, la figlia del grande drammaturgo, giocò a suo marito Charlie Chaplin in occasione di Luci della Ribalta, perché a un certo punto si sostituì alla ballerina interpretata sul set da Claire Bloom, da questa grande attrice, e truccata esattamente come lei interpretò le ultime scene del film. E c'è anche un poten che riguarda una situazione ancora, diciamo così, in via di definizione. Quando Soraya di Persia, ex imperatrice, decise di fare l'attrice, non interpretò soltanto il suo unico film I Tre Volti, che non ebbe il successo sperato, ma poco prima si inserì, ma con tanto di nome in cartellone, nel set del film She, in italiano La Dea della Città Perduta, tratto da un famoso romanzo di Rider Haggard, di cui era protagonista Ursula Andress. Però nella copia italiana del film è presente il suo nome, ma non la sua effigie sullo schermo. E lei stessa ha lasciato scritto che questo era un easter egg che sarebbe stato sciolto soltanto in avvenire. Questo per quanto riguarda il passato. Ma ho avuto per esempio un'esperienza deliziosa anni fa, quando per i suoi 80 anni intervistai Gina Lollobrigida nella sua meravigliosa villa sull'Appia Antica. Era la fine di giugno e i primi di luglio, e Gina, con la sua abituale gentilezza e franchezza, mi disse che, date le condizioni meteorologiche, che era un'estate precoce, che ormai annunciava un'estate piena. Le uova, per esempio, deposte dalle sue cicogne stavano per schiudersi e vedemmo un delizioso cicognino forare questa tenera intercapedine di un uovo vero e proprio e mostrare il suo capo ancora stordito dalla luce che per la prima volta vedeva. Quindi questa, diciamo, che è stata un easter egg vera e propria. Ma ci sono state, per esempio, delle recenti easter egg e confessioni anche di dive famose, per esempio la nostra grande indimenticabile Valentina Cortese, che l'11 di questo mese, quindi tra pochi giorni, licenzia il suo libro autobiografico dove sono finiti i domani di ieri. Mi ha raccontato una volta anni fa che quando arrivò a Hollywood e intrecciò una relazione appassionata con il grande regista Jules Dassin, che anni dopo sposò Melina Mercuri, ma che fece interpretare a Valentina uno dei suoi ruoli più belli nel film I Corsari della Strada, e quando a un certo punto Valentina decise di lasciarlo per non compromettere il matrimonio di Dassin, che considerava assolutamente al di sopra di quello che poteva essere una liaison con un'attrice straniera, accettò ancora di dargli i suoi ultimi saluti, il suo ultimo appassionato saluto, in quello che riteneva un luogo assolutamente inaccessibile ai fotografi, ai giornalisti e anche, diciamo, alle interferenze private in luogo pubblico, e che era l'aeroporto di Los Angeles, dove, come lei stessa diceva, ci si poteva impunemente baciare, abbracciarsi, piangere, senza che nessuno ti riconoscesse o ti facesse in qualche momento, in quel luogo preciso, in quel momento preciso, pesare la tua partecipazione, diciamo così, al riconoscimento collettivo, al rituale di salutarsi, di piangere, di disperarsi, dato che si trattava appunto di un luogo dove era frequente lasciarsi e ritrovarsi, e che per lei l'aeroporto di Los Angeles era stato l'anticamera dell'amore o della fine di un amore. E anche questo spero che ci sia nel suo libro, perché è stato un ricordo toccante che Valentina, con la sua grazia inimitabile e con la sua sorprendente intelligenza, mi aveva consegnato come se fosse un petit cadeau, un easter egg, tanti tanti anni fa. Ma di recente c'è, per esempio, anche un vero easter egg, perché è di questi giorni la sorprendente rivelazione che la sempre vivente Esther Williams, dall'alto dei suoi 91 anni, ha aperto una piscina dotata di effetti tridimensionali a Santa Monica, dove accanto ai bambini ciechi che da molti anni lei assiste, a cui fa imparare il nuoto, si esibirà, diciamo, nel suo ultimo grande show prima del suo definitivo ritiro, in attesa di che cosa? Forse di una resurrezione o di un'eterna giovinezza. Questi mi sembrano degli easter egg molto divertenti. Ah, la chicca su Esther Williams, poi, guarda, mi ha veramente lasciato sconcertato, perché sono qui che vorrei vedere il risultato di tutto questo. Vorrei vederla anch'io, certo. Ci riusciremo. Grazie poi alla tecnologia e YouTube sicuramente riusciremo a vedere una ripresa, quantomeno un bootleg. Spero proprio di sì. Intanto c'è anche la notizia che Jasmine Khan, la principessa Khan, figlia di Ali Khan e di Rita Hayworth, sì? Sta per aprire a Los Angeles un museo dedicato alla madre e anche a tutti gli amori della grande Rita. Anche questo forse sarà un easter egg degno di essere riconosciuto e valutato non nell'Olimpo dei ricordi, ma nell'Olimpo delle possibilità per gli instancabili viaggiatori del globo e i cultori dei divi e delle dive del passato. Enrico, abbiamo veramente così aperto in due con te l'uovo della conoscenza, e grazie a tutto quello che hai letto, saputo, conosciuto, le persone che hai incontrato, che sono tante. Io so che avresti ancora molte altre uova di Pasqua, ma le lasciamo alla prossima puntata. Le lasciamo alla prossima puntata. Intanto che tutti aprano le uova di Pasqua, quelle vere, abbiano un magnifico, un bellissimo weekend, e che le uova di Pasqua, a questo punto immaginarie e non reali, le aprano ogni giorno della nostra vita, grazie appunto a Radio 24 e al tuo bellissimo programma. Grazie Enrico. Auguri ancora. Anche a te. Il riposo del guerriero. Enrico Groppali prima ci ha anticipato le sorprese pasquali vere, si riferiva anche a quelle, e di questo infatti parliamo, ma non proprio pasquali. Ci sono degli ovetti che all'interno hanno una sorpresa, sono molto famosi e sono gli ovetti Kinder. A parte che sono buoni, ma al di là di questo, la sorpresa ha avuto i suoi effetti, nel senso che esistono collezionisti in tutto il mondo che le cercano e le collezionano, appunto. Ne abbiamo scovata una. Antonella Rasponi, ciao, buona Pasqua, buona domenica. Ciao, buona Pasqua, buona domenica anche a voi. Allora, tu da 20 anni collezioni sorprese Kinder. Adesso ti devo chiedere quante ne hai raccolte. Tante, veramente tante. Ma non hai un numero, un catalogo, non so. Sì, un catalogo, sì. Esiste un catalogo, infatti, dove appunto vengono catalogate tutte le sorpresine che sono uscite da oggi, da più o meno 20 anni a questa parte, perché non sono uscite solo in Italia, sono uscite anche nei paesi stranieri, ovviamente, io colleziono anche quelle. Ecco, ma sono diverse da quelle italiane, cioè ogni paese ha le sue. Assolutamente sì. Ecco, quindi sono veramente... Ma allora, parliamo di migliaia, di decine di migliaia? Dimmi un ordine di grandezza, se riesci. Allora, le serie generalmente sono da 10-12 pezzi, sì, tendenzialmente. Devo fare una moltiplicazione, ho già capito. Fai conto che escono in Italia, sono uscite più o meno per una decina d'anni, due serie all'anno, mentre fuori all'estero 4-5, perciò moltiplica, non mi è mai venuto in mente di contarli, sinceramente. Ma io la prima cosa che farei è quella, scusami, alla fine. Quante collezioni ho? Bisognerebbe che consultassi il catalogo e più o meno ti direi quante collezioni, effettivamente il numero esatto non te lo so dire. Ecco, ma conto una decina di collezioni ad anno, più o meno, per 20 anni. Ecco, sono veramente molte. Dove le tieni tutte queste sorprese? Allora, quelle che escono, allora, le più vecchie sicuramente esposte, perché comunque ci sono dei pezzi che hanno anche dei valori. Ecco, dopo parliamo anche del valore, adesso cominciamo a capire dove le tieni. Ecco. Allora, in delle bacheche o in delle scatoline che sono fatte apposta per tenere le sorpresine in modo che non si rovinino, insomma. Ecco, ti prendono per pazza, Antonella, oppure no? No, ma ci sono tante. È un collezionismo che si possono permettere tutti. No, ma sicuramente, è una battuta, chiaramente. Però perché, molte volte mi dicono cosa se ne fai di tutta quella plastica. Ma questo è normale, ma questo lo sappiamo, ma le collezioni, cioè gli oggetti inutili, ne ha parlato recentemente anche Gianluca Nicoletti in una sua puntata, gli oggetti inutili in realtà sono utili per noi, ma Antonella, tu le tieni, sono tutte montate, quindi devi anche montarle una, perché sono smontate dentro il allora, contenitore. Ci sono stati degli anni che la sorpresina usciva in monopezzo, perciò era un pezzo singolo senza accessorio, poi ci sono stati gli anni che sono usciti invece i pezzi con l'accessorio, più complicati ovviamente, e queste tendenzialmente si mettono nelle bacheche perché chiaramente montate sono molto più belle. Però diciamo che le prime sorpresine erano proprio completamente smontabili, Paperino, Topolino. Sì. E lì devi tenere a conto tutti i pezzettini, gli adesivi, perciò è un collezionismo ancora più complicato. Ecco. E in considerazione che devi tenere a conto anche tutte le cartine. Sì, certo, perché è chiaro, perché abbiano un valore devono essere esattamente come erano. Ecco. Esatto. Antonella, e voi collezionisti di questo tipo di sorprese, vi informate su quello che dovrà uscire, quindi avete così una sorta di filo diretto con la produzione, oppure no, le scoprite proprio comprandole e aprendole? Comprandole e aprendole, purtroppo non c'è questo filo diretto con chi... anche perché una volta probabilmente venivano dipinte a mano veramente, perciò il lavoro veniva fatto, diciamo, in un giro abbastanza ristretto. Ormai si fa dipingere tutto fuori, perciò sicuramente in Cina quando arriva e la sorpresa è una sorpresa. Nel vero senso della parola. Ecco, Antonella, a quanto può arrivare il valore di una delle sorprese Kinder del passato? Allora, diciamo che il pezzo più costoso in assoluto è un pezzo tedesco, la serie si chiama Pumukl, ed è un personaggio, fai finta il nostro Topo Gigio per darti un'idea di cosa può essere, però è proprio un omino che faccia parte di un cartone animato e va sui 1500 euro. Ecco, quindi se così... Solo il personaggio, non tutta la serie. No, certo, se vi siete trovati in Germania in quel periodo avete comprato un novetto, avete preso quella sorpresa. No, vedi com'è. E purtroppo il collezionismo inizia di questo genere, è iniziato dopo... Perciò andare a ricercare quello che una volta il bambino usava da giocare è ancora più difficile, infatti quei pezzi li costano perché ce ne sono veramente pochissimi, o hanno giocato perciò l'hanno rovinato o l'hanno rotto, perciò è difficilissima la reperibilità, e questo te ne dimostra il fatto del prezzo. Ecco, per avere tutte le serie dovrete comprare una valanga di uova, no? E cercarlo, esatto. Poi ve le scambiate tra di voi anche. Sì, anche, assolutamente sì. Quindi questa... c'è questo giro anche di cambi, telefonate, messaggi, proprio per riuscire a cambiare, perché magari in certe zone escono più pezzi, in altre zone escono altri pezzi, perciò ce li cambiamo quindi, a trovare. Quindi se avete, anche voi siete appassionati di sorpresine Kinder o comunque avete la curiosità, magari ne avete alcune, volete capire se potete venderle o ne state cercando, Antonella Rasponi ne ha tantissime, ha anche un sito internet, vero, dedicato a questo? Esatto. Lo vogliamo ricordare, Antonella? Certo, Collection Island, l'isola del collezionismo tradotto, @collectionisland.com. Ecco, per cui potete scrivere tranquillamente, andare a visitare il sito e godervi le vostre sorprese. Grazie Antonella e buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua. Adesso c'è il momento dedicato al mondo dei videogiochi e una sorpresa per voi ad attendervi. Video game. Video game. Per quanto riguarda i videogiochi, oggi vi parlo di un titolo sportivo particolarmente innovativo, Grand Slam Tennis 2, e attenzione perché vi aspetta una sorpresa. We're up here in the commentating booth. I'm Pat Cash. Mate, I'm looking forward to this. Electronic Arts ha pensato a un titolo dedicato al tennis che potesse essere a metà strada fra la semplicità di Virtua Tennis e il realismo di Top Spin 4. Così Grand Slam Tennis 2 punta a soddisfare sia un pubblico di giocatori casuali, sia quello di giocatori più accaniti, appassionati di questo sport. Per quanto riguarda i tornei di Grand Slam, la cosa più interessante è l'esclusiva di Wimbledon, e per quanto invece riguarda la giocabilità, l'innovazione sta nel nuovissimo sistema di controllo totale della racchetta, che vi dà la possibilità di colpire la palla in assoluta libertà. Per le vostre sfide familiari di Pasqua potete godervi bellissime partite come se le guardaste in TV, grazie alla grafica straordinaria di Grand Slam Tennis 2, disponibile per Xbox 360 e PlayStation 3. E inoltre, chi ha la PlayStation 3 può utilizzare anche l'accessorio Move. I primi 4 che invieranno una mail con il nome della software house che produce Grand Slam Tennis 2 riceveranno una copia del gioco. Nella mail dovete specificare se preferite Xbox 360 o PlayStation 3, anche se non è detto che riceverete la versione richiesta. E l'indirizzo per inviare la vostra risposta è videogiochi@radio24.it. Ed è tutto per questa puntata pasquale del Riposo del Guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Valeria Bernardi e a Pietro Lacorte in regia. Ovviamente grazie a voi. Buon lunedì di Pasquetta. Ci sentiamo domenica prossima, come sempre, puntuali alle 10. Buona settimana da Stefano Gallarini.